Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Dopo il terremoto che ha fatto tremare i più importanti istituti di credito in Occidente, che per la verità a giorni alterne continua ancora a provocare queste scosse sismiche, e situazione che come sapete bene ha costretto i governi ad intervenire, quest'onda sismica si sta abbattendo anche sui paesi dell'est Europa e naturalmente anche sull'area asiatica, un po' su tutte le aree per la verità delle cosiddette economie emergenti. Ci sono degli stati che addirittura in questo momento stanno letteralmente mettendo in discussione la loro capacità di sopportare gli effetti di questa crisi, con delle conseguenze che al momento sono assolutamente difficili da prevedere. I mercati azionari dell'Asia, per esempio, stanno registrando ogni giorno da settimane, in certe giornate, perdite a due cifre che poi sono letteralmente capaci di recuperare interamente nelle giornate immediatamente successive. C'è in questi giorni, da qualche settimana, una situazione delicatissima che si sta manifestando in alcune aree dell'est Europa. E di tutto questo noi parleremo questa mattina con Michele Cavagna, gestore di GSL Emerging Markets, quindi il gestore proprio che si occupa delle aree delle economie emergenti, e Luca Pierazzi, responsabile della sede italiana di East Capital, che invece è una società che è quasi interamente proiettata proprio nelle economie dell'ex blocco sovietico. Buongiorno a tutti, buongiorno Cavagna, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Luca Pierazzi, benvenuto. Buongiorno. Allora, 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi, 349 in diretta, 349 238 6666 è invece il numero per i vostri messaggi. La borsa, dicevamo, insomma, la continuiamo a monitorare sempre con una certa apprensione da molte settimane. Dopo i nuovi ribassi di ieri, quest'oggi abbiamo invece una situazione positiva, per fortuna, sul mercato. È stata più che positiva sulle aree asiatiche, con il Nikkei che ha chiuso con un rimbalzo del 6,41%, ancora più poderoso il recupero dell'Hang Seng di Hong Kong, più 14,35%, praticamente è stata interamente annullata la perdita di ieri, anzi recuperando anche qualcosa in più. Una situazione un po', anche se un ascoltatore mi contesta le Z che metto in questa parola, schizofrenica. In Europa questa mattina Parigi più 2,70, in apertura faceva più 3, è arrivata a perdere il 2%, adesso recupera quasi 3 punti. Francoforte, stanno volando i titoli della Volkswagen e anche oggi mette a segno un rialzo del 6,38%, andando completamente in controtendenza rispetto all'Europa. Stamattina l'istino tedesco guadagnava addirittura fino a quasi a 9 punti. Londra più 2,26, un po' più in sordina Piazza Affari, che è comunque positiva ma guadagna lo 0,83%. Stamattina tra l'altro Milano ha avuto anche qualche problema di diffusione dell'indice S&P MIB. Adesso comunque il paniere dei principali 40 titoli di Piazza Affari è in rialzo appunto dello 0,83%, MIPTEL più 1,41, ma su Piazza Affari oggi stanno pesando le vendite che stanno imperversando sulla Banca Popolare di Milano, meno 3,13, ma soprattutto su Intesa San Paolo e su Unicredito, che stanno adesso scivolando del 5,5%, ma sono ancora una volta arrivate a perdere l'8 e il 9%, hanno avuto una nuova sospensione per ribasso anche questa mattina, e questo ci dà la misura di quanta fiducia si abbia ancora nel settore bancario, e anche il nostro paese non è assolutamente immune rispetto a questo. Saipem miglior titolo più 7%, Luxottica più 6,91, Fondiaria più 6, Talcementi più 5,28, Pirelli più 5, Tenaris più 4,73, Mediolanum più 4,50, Ubibanca più 4%, per cui in realtà il pessimismo non riguarda stamattina tutte le banche. Abbiamo anche STM in rialzo del 3,28, il Banco Popolare più 3,73%. L'euro sul dollaro stamattina ha fatto capolino sopra quota 1,25, adesso riperde questa soglia, è a 1,2490, però tenta il recupero dopo la discesa degli ultimi giorni. Insomma, la buona notizia riguarda ancora l'Euribor, sta proseguendo questa flessione dei tassi interbancari appunto denominati in euro, e la scadenza a 3 mesi, che è quella alla quale, malgrado no, insomma, siamo un po' tutti affezionati, e quella a 3 mesi, appunto, vi dicevamo, ed è scesa al 4,86%, soprattutto i nostri mutui. Speriamo che si cominci a riflettere per bene questa tendenza anche sulle rate delle famiglie italiane. Noi però lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, che comunque con la borsa ha a che fare. Parliamo dei mercati emergenti. La L'effetto domino della crisi dei mutui subprime, dopo essersi abbattuto sulle borse e sulle banche internazionali, rischia ora di travolgere una per una le economie più fragili dei paesi emergenti. E così anche chi sperava che la crescita di questi ultimi potesse in parte compensare i tracolli delle economie più solide, ora è costretto a ricredersi. A fare da apripista è stata l'Islanda, poi la fila di paesi corsi a bussare alla porta del Fondo Monetario Internazionale in cerca di sostegno si è allungata. A capitolare per prima è stata l'Ungheria, costretta ad alzare in un solo giorno di 3 punti il tasso di sconto, portandolo all'11,5%, per ridare fiato alla propria valuta, il fiorino, affossato dalla fuga di capitali dal paese. Ma nemmeno l'intervento da 5 miliardi di euro stanziato dalla Banca Centrale Europea è servito per ora a ridare fiato alla moneta. A finire nell'occhio del ciclone, negli ultimi giorni, sono stati soprattutto i paesi appartenenti all'ex blocco sovietico. La Bielorussia ha alzato bandiera bianca chiedendo al Fondo Monetario Internazionale 2 miliardi di dollari, mentre il salvagente in arrivo da Washington per l'Ucraina è di 16,5 miliardi. E gli interventi a sostegno delle economie di questi stati difficilmente si esauriranno qui. Dall'Estonia alla Lettonia, dalla Lituania alla Repubblica Ceca, la crisi sembra non guardare più in faccia a nessuno, e le ragioni sono sempre le stesse. Da un lato, la forte dipendenza economica di questi stati dai flussi di investimenti esteri, e dall'altro, la forte influenza che ha su di essi l'economia russa, che ha subito pesantemente gli effetti della crisi internazionale. Bisogna inoltre considerare che le banche centrali e i governi dei paesi emergenti dell'Europa centro-orientale non possono di certo permettersi di immettere decine di miliardi di euro nelle banche locali e nei circuiti monetari, a differenza di quanto accaduto in Occidente. Infine, è innegabile che qualche contraccolpo sia arrivato anche dal conflitto russo-georgiano e dalle instabili condizioni politiche di molti paesi dell'area, che hanno rappresentato un ulteriore fattore di timore per gli investitori, già in allerta a causa dello scenario economico globale. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Pierazzi si mette le cuffie, se no non mi sente. 349 238 6666 invece il numero per i messaggi dei nostri ascoltatori. Ne vedo già qualcuno pronto ad intervenire. Marco da Como, lo sentirò fra qualche istante. Prima di tutto però sciogliamo il ghiaccio con i nostri ospiti. Michele Cavagna, gestore di GSL Emerging Markets. Che fine ha fatto il BRIC? Il BRIC, questi 4 paesi che erano stati elevati proprio al massimo dei paesi emergenti, crescita a doppia cifra per chissà quanto tempo, reddito disponibile delle famiglie in crescita anche qui, GDP pro capite in rialzo. Non è che sia cambiata di molto la situazione all'interno del singolo paese. La Cina continua a crescere, anche se meno rispetto a quanto potevamo aspettarci fino a pochi mesi fa, ma parliamo pur sempre di una crescita che è stimata nell'ordine del 7-8% per l'anno prossimo. Così come il Brasile, che ha sempre avuto una crescita più bassa, ma dovrebbe crescere ancora del 4% dell'anno prossimo. L'India è il paese dopo la Cina che continua a crescere di più, crescerà l'anno prossimo dal 6 al 7% ed è ancora più indietro per quanto riguarda l'espansione della classe media, per cui con tutte le prospettive di crescita dei consumi. La Russia ha dei problemi forse più legati all'esposizione alle materie prime rispetto agli altri, ma l'economia domestica dovrebbe sempre crescere a un tasso significativo. Eppure anche questi paesi sono abbastanza travolti, non ci piace utilizzare termini pesanti, non saprei però che sinonimi trovare in una fase come questa, e stanno comunque subendo tutti gli effetti della crisi finanziaria internazionale. Tra l'altro c'è un ascoltatore pronto proprio a chiederci delle cose sull'India, lo sentiremo fra qualche istante. Quanto sta pesando la crisi internazionale su queste aree? Ma se fino a qualche mese fa potevamo pensare che questi paesi fossero un pochino insulati da quello che succedeva all'esterno di essi, ci siamo ora resi conto che ciò non è vero, per cui da un lato le economie sono tutte collegate tra di loro, per cui un rallentamento nei paesi sviluppati genera in ogni caso un rallentamento, se non altro dal punto di vista delle minori esportazioni in questi paesi. E secondariamente, ma in questo momento forse è l'aspetto più importante, i flussi di investimento sono tutti collegati, per cui ci sono dei grossi fondi che investono su tutte le aree geografiche e si trovano costretti in certi momenti a dover vendere per raccogliere dei fondi per praticamente far fronte a richieste di rimborsi. E in ogni caso si sono investiti indebitandosi parecchio negli ultimi mesi, e con i tassi di interesse che sono saliti sono costretti a chiudere le posizioni. Per cui... E questa insomma la situazione che riguarda anche le economie dell'est, Luca Pierazzi. Oggi leggiamo sui giornali ancora dei massicci aiuti che il Fondo Monetario Internazionale sta elargendo ai cosiddetti paesi dell'ex blocco comunista, e in pole position abbiamo l'Ungheria, la situazione sicuramente più problematica di quest'area. Là che cosa sta succedendo? Ma là sta succedendo sostanzialmente che sono arrivati gli effetti della crisi finanziaria. Le economie stavano viaggiando bene, alcune in una situazione anche di equilibrio finanziario dei paesi, altre viaggiavano in condizioni di disequilibrio finanziario. Come la crisi finanziaria che si è prodotta all'ovest si è trasmessa attraverso i canali finanziari all'est, i paesi che avevano un minore equilibrio finanziario hanno incontrato le maggiori difficoltà, taluni sono entrati in crisi, per esempio l'Ungheria, l'Ucraina. Questo è quello che sta succedendo. Il punto di fondo è proprio questo: siamo riusciti da Occidente a Oriente a trasmettere una crisi che non ha contenuti economici, non aveva contenuti economici, avrà contenuti economici come conseguenza. La cinghia di trasmissione è stata la finanza. Nonostante questi paesi non avessero una diretta esposizione a tutti i prodotti finanziari che hanno scatenato la crisi, che si è originata negli Stati Uniti, le banche ucraine o ungheresi o russe non avevano posizioni in subprime, alla lunga gli effetti di questa crisi comunque hanno contagiato questi paesi. La cosa interessante da notare, se guardiamo al grafico delle borse degli ultimi 2 anni, è che mentre le borse occidentali hanno visto il loro massimo nell'inizio dell'estate del 2007, parliamo quasi ormai di un anno e mezzo fa, le borse dei paesi dell'Europa dell'Est e dell'ex blocco sovietico hanno visto i loro massimi nel luglio di quest'anno. Quindi finché la crisi finanziaria non ha trasmesso i suoi effetti all'est dell'Europa, l'est dell'Europa ha continuato a progredire, ha continuato a progredire l'economia e di riflesso i mercati finanziari hanno continuato a salire. Poi come una mazzata è arrivata l'onda della crisi finanziaria, il credit crunch, non ci sono più soldi, si ritirano i soldi, l'economia si ferma. Anche perché c'è un aspetto di non trascurabile importanza, lo commentavamo con lei proprio nella trasmissione Focus Economia, l'ho ospitata la settimana scorsa, c'è un aspetto appunto non indifferente che la gran parte delle banche di queste aree è di proprietà straniera. Per cui era inevitabile anche che la crisi si facesse sentire prima o poi, e forse in maniera così drammatica proprio come sta accadendo in queste aree, o no? Beh, è evidente che in molti di questi paesi le banche sono possedute da banche occidentali, anche italiane, no? Come sappiamo benissimo, europee in larghissima maggioranza. Quando una banca internazionale, una banca francese o italiana affronta dei momenti di crisi, deve rifare i conti con i soldi che ha in cassa e comincia a stringere il credito, lo fa anche nelle partecipate e quindi lo fa anche nelle banche che possiede, ad esempio in Ungheria o in Polonia e via dicendo. Questo naturalmente ha un effetto indotto su quelle economie che non avevano motivo per attendersi questa interruzione della regolarità dei flussi finanziari. È un'interruzione che arriva da fuori e che però impatta l'economia locale. Vorrei sentire adesso Marco da Como, però prima un'altra curiosità da togliermi con Michele Cavagna, perché qua c'è una situazione anche molto critica per un paese che la cui sorte l'abbiamo seguita con grande attenzione negli ultimi 6, 7, 8 anni, perché ha già avuto una bancarotta, ci sono andati di mezzo centinaia di migliaia di risparmiatori italiani, e parlo dell'Argentina. Il governo argentino sembra essere sull'orlo di un'altra situazione simile a quella del 2001, non so se la sensazione che ho è la sua stessa, dottor Cavagna, speriamo di non doverci ritrovare in portafoglio un'altra volta obbligazioni di quell'area che poi quel governo rischia di non ripagare, insomma rischiamo un'altra bancarotta, e il segnale per esempio che ha dato il governo argentino di nazionalizzare i fondi pensione preclude secondo lei ad uno scenario di questo tipo? Beh, direi che il mercato in questo momento sta scontando praticamente una bancarotta dell'Argentina nei prossimi anni, per cui sia a livello del credit default swap del paese che i tassi di interesse stanno praticamente scontando questo. Il provvedimento che il governo argentino ha preso nelle settimane scorse non è sicuramente un buon segnale. Il fatto di praticamente prendere sotto il proprio controllo tutti i fondi destinati al pagamento delle pensioni dei dipendenti fa pensare che possa essere destinato questa somma possa essere destinata a finanziare ulteriore indebitamento del governo oppure addirittura a sostenere le spese correnti del governo, e questo non è sicuramente piaciuto ai mercati, che hanno punito in modo molto molto pesante il mercato. Devo aggiungere che negli ultimi anni il peso dell'Argentina all'interno dell'universo dei paesi emergenti è praticamente ridotto a zero. E all'interno dell'universo standard dei gestori dei paesi emergenti l'unico titolo significativo è Tenaris, che addirittura è più un titolo italiano che argentino. Infatti. Marco da Como, inauguriamo le telefonate degli ascoltatori. Marco, benvenuto, ricordo il numero verde l'800240024. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare un intervento un po' fuori dalla norma, una cosa un po' positiva. Mi devo spaventare, Marco. No, secondo me è una cosa positiva. Ho 44 anni, c'ho un figlio di 2 anni, ed è già un 2-3 anni che gli sto facendo un piano di accumulo, un 100 euro tutti i mesi su un PAC, su un fondo azionario internazionale, e un accumulo personale, 100-200 euro, su un ETF sul mercato indiano. Da qua a 18 anni, 20 anni come termine. Volevo solo sapere se è un modo corretto per sfruttare questi indebitamenti, anche alla luce di quello che hanno detto i suoi ospiti. Certo, il PAC è insomma uno strumento che permette, sì. Infatti io ho fatto PAC sull'ETF più che altro perché credo nel mercato indiano a livello personale e culturale, e poi per un discorso di costi di gestione che li ritengo un attimino più bassi rispetto ai fondi. Sì, senz'altro. Vabbè, su questo abbiamo veramente speso fiumi di parole, sulla differenza commissionale che viene applicata appunto ad un ETF rispetto ad un fondo tradizionale. Ma a parte questo, a parte il vantaggio da questo punto di vista che questo strumento ha, ovviamente Marco ha di fronte a sé un'ottica di lunghissimo periodo, perché sta accantonando per il bambino a 2 anni il mercato indiano, l'abbiamo citato prima, Cavagna, insomma, in un'ottica di lunghissimo periodo come quella che si è data Marco, insomma un'ottica giusta per accantonare anche una piccola cifra, e in prospettiva il mercato comunque ancora sta andando bene dall'altra parte. Ma direi che è l'unica ottica con il quale approcciare questo tipo di mercato, per cui è un mercato la cui storia sottostante è sicuramente molto molto interessante, da qui ai prossimi 5-10 anni. Un paese, il secondo paese più popoloso del mondo, con un tasso medio di reddito della popolazione ancora molto molto basso, per cui destinato in ogni caso ad incrementarsi, e con un sacco di investitori pronti ad entrare su questo mercato, per cui direi che all'interno di un piano di investimento destinare una quota non troppo importante a un mercato come quello indiano è una cosa assolutamente interessante. Dottor Pierazzi, per quello che riguarda i mercati dell'est Europa, secondo lei, a prescindere dalla situazione congiunturale che è oggettivamente difficile, i motivi in parte li abbiamo spiegati anche prima, anche per quello che riguarda queste aree, secondo lei un approccio all'investimento è corretto come quello suggerito da Marco, insomma un'ottica graduale potrà permettere nel futuro, nel lungo periodo comunque, di riportarci a delle soddisfazioni verso queste aree? Assolutamente sì, si tratta di paesi che hanno tassi di crescita importanti, che sono multipli rispetto ai tassi di crescita dell'Europa occidentale, e quindi questo nel lungo periodo si riflette nelle quotazioni di borsa. È evidente che nel breve periodo si può andare incontro, come in tutte le borse e in quelle emergenti questo avviene di solito con maggiore volatilità, a delle discese improvvise oppure a delle impennate non particolarmente giustificate dall'andamento dell'economia. Però è chiaro che economie che crescono a tassi che prima di questa crisi finanziaria erano stimati tra il 4 e il 7% e dopo penso che alla fine li stimeremo intorno al 2, 4, 5% a seconda dei paesi, offrono non delle opportunità neanche, enormi. Certo, non sono neanche delle crescite zero. Esatto, cioè stiamo parlando, ecco, spesso stiamo parlando con così toni da disastro che sono in qualche maniera adeguati all'andamento dei mercati finanziari, ma non sono adeguati all'andamento delle economie sottostanti. Questa distinzione secondo me va fatta e va ricordata. Ci sono sotto questi mercati finanziari, ci sono mercati reali, cioè economie che continuano a viaggiare, aziende che continuano a produrre, a crescere, a aumentare i fatturati e via dicendo. Sono economie che devono recuperare dei gap industriali enormi, no? Rispetto a gap industriali enormi negli ultimi cent'anni. E che hanno le risorse per farlo, perché quanto si diceva prima a proposito per esempio di alcuni paesi dell'est come la Russia, che in questo momento ha lo svantaggio delle materie prime. Lo svantaggio delle materie prime vorremmo averlo noi in Italia, che materie prime non ne abbiamo neanche una, insomma. In questa fase è uno svantaggio, ma nel lungo periodo avere delle materie prime è ricchezza. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, alla luce della crisi finanziaria internazionale, oggi stiamo esplorando lo stato di salute delle economie emergenti, perché ci sono certe aree che naturalmente hanno subito pesantemente gli effetti della crisi finanziaria internazionale, altre che stanno subendo degli effetti perché ovviamente anche in certe aree il sistema finanziario sta subendo delle difficoltà, ma sono comunque aree come la Cina e l'India, che abbiamo citato prima, che continuano a registrare tassi di crescita per quello che riguarda l'economia reale ancora vigorosissimi, per cui bisogna anche fare attenzione a quando si parla della propagazione della crisi in determinati mercati. Certo è che per quello che riguarda l'Europa dell'Est le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. C'è uno Stato, quello ungherese, che rischia una bancarotta. Il Fondo Monetario Internazionale comunque corso in soccorso con dei stanziamenti che riguarderanno presto anche altre economie di quest'area, ma oggi abbiamo cercato di capirne qualcosa di più rispetto a quello che accade in queste zone con Michele Cavagni, gestore di GSTL Mercati Emergenti, e Luca Pierazzi, responsabile della sede italiana di East Capital. Per le vostre domande il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Antonio da Genova, benvenuto. Rosciani, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la sua professionalità e il suo swing. Meno male, Antonio, grazie mille. Ci dica. Senta, io volevo chiedere al suo ospite, cioè, una curiosità avevo. Vivendo in un mercato totalmente globalizzato, sì, come, qual tipo di analisi li ha portati a pensare che i mercati emergenti potessero restare fuori dalla crisi? Dipende a quale area si riferisce, Antonio, però insomma magari cerco di tradurre ed interpretare io il suo interrogativo. Fino a qualche mese fa eravamo tutti pronti a sostenere che magari il rallentamento delle principali economie occidentali potesse essere ampiamente compensato dalla crescita che rimane abbastanza vigorosa in alcune aree emergenti. Non lo so, Cavagna, lei come interpreta la domanda di Antonio? Beh, tutto sommato questo effetto compensazione ancora ce l'abbiamo. Sì, la crescita dei paesi emergenti continua a rimanere molto al di sopra della crescita dei paesi sviluppati. Ciò detto, i mercati finanziari reagiscono a ciò che succede a livello globale, anche per quanto riguarda le azioni dei paesi emergenti, per cui non si può pensare che gli investitori occidentali che investono sia sui paesi sviluppati che su quelli emergenti non vendano quelli emergenti quando tutti i mercati globali sono in discesa. Intanto apprendiamo questa mattina che la Cina parteciperà al vertice di urgenza sulla crisi finanziaria del 15 novembre a Washington, reclamando una maggiore rappresentatività per i paesi emergenti. Ha ragione Cavagna, la Cina? Beh, è giusto? Ha ragione nel chiedere questa maggiore rappresentatività. Direi che in ogni caso l'importanza della Cina è indipendente da quello che può essere la rappresentanza ufficiale della Cina a livello globale, per cui il peso economico della Cina è molto molto molto molto forte. Luca Pierazzi, la crescita di Cina e India degli ultimi anni è stata importante anche per l'economia dell'Est Europa? Parzialmente sì, l'Est Europa, l'ex blocco russo, cioè i paesi che sono nati dalla disgregazione dell'Unione Sovietica, hanno relazioni commerciali anche con i paesi dell'Est, del Far East, eccetera. Questo è un aspetto interessante perché in realtà, e mi ricollego alla domanda che faceva l'ascoltatore prima, che se non ho capito male diceva, ma insomma non avevate immaginato che poi questa crisi un giorno o l'altro sarebbe anche arrivata a questi paesi? Sicuramente sì, naturalmente era difficile prevedere quale fosse la dimensione, la profondità della crisi. Sono diciamo misure che riusciamo ad avere soltanto adesso, qualcuno le aveva preconizzate, altri invece ritenevano che non fosse possibile avere una crisi di questo tipo. È chiaro che la crisi, era chiaro fin dall'inizio che la crisi avrebbe avuto un impatto anche su questi paesi, su taluni di più, su altri meno. Faccio un esempio. La Russia è un paese che esporta verso gli Stati Uniti l'1% del proprio totale. È evidente che è esposta pochissimo a uno shock economico che arrivi dagli Stati Uniti. È evidente che se questo shock diventa un maremoto, poi coinvolge l'Europa, e allora lì sì che con l'Europa tutti questi paesi, Russia inclusa, hanno forti relazioni economiche. Ma hanno relazioni economiche fortissime tra di loro, hanno una forte domanda interna, e hanno relazioni economiche anche con le aree tipo l'India, quindi di tutto il resto dell'Asia. Questo fa sì che dal punto di vista economico queste aree si distinguano anche in maniera abbastanza marcata rispetto ad altre aree dei paesi emergenti, perché hanno un modello economico molto più basato sulla domanda interna e molto meno dipendente dalle esportazioni, e soprattutto dalle esportazioni verso le aree, diciamo così, economicamente più forti e volatili del mondo. Gli Stati Uniti, quando si fermano, creano grossi problemi a tutta una serie di paesi che sono tradizionalmente esportatori nei confronti degli Stati Uniti. Dal punto di vista della gestione del denaro e quindi della formazione di un asset class, questi paesi rappresentano una scelta per decorrelarsi rispetto all'economia americana, evidentemente non ai terremoti finanziari che toccano tutto il pianeta. Insomma, questa è una situazione che ha tutte delle sue caratteristiche sulle quali ci siamo soffermati anche fin troppo. Quanti fondi avete in casa vostra, Pierazzi? Noi abbiamo due famiglie di fondi sostanzialmente, una che è rappresentata dai fondi comuni, quelli che diciamo i risparmiatori possono comprare, e una che è rappresentata dai fondi di private equity. In tutto sono quasi una ventina di fondi. E sono diciamo assolutamente rappresentativi di tutte le economie dell'Est Europa? Ce n'è qualcuna di cui non volete neanche sentir parlare? Diciamo che ci sono dei paesi dei quali vogliamo sentir parlare, ma non investiamo. Faccio un esempio: la Bielorussia, che è uno dei paesi che oggi domanda aiuti, è un paese nel quale noi non investiamo, non ha le caratteristiche istituzionali, politiche, anche di quadro normativo che consentono di investire con sufficiente fiducia nell'ambiente nel quale le imprese lavorano, e quindi questo è uno dei paesi nei quali non investiamo. Nella nostra area, che va più o meno da Trieste all'Alaska, ci sono 29 paesi, noi investiamo in quasi 20 di questi. 10 li riteniamo non sufficientemente adeguati per effettuare degli investimenti, anche se magari al loro interno vi sono delle aziende splendide, estremamente redditizie, però di grande crescita. Lavorano in situazioni non affidabili dal punto di vista istituzionale, come lei diceva, che questa è una nelle quali non vogliamo mettere i soldi dei nostri risparmiatori. Volevo rimanere al momento sull'Europa dell'Est con la domanda di Giulio da Perugia. Giulio, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo dire questo, un PAC, GSTL, Est Europa. Ah beh, allora, sì. Allora devo tornare da Cavagna, sì. Ecco, sottoscritto tempo fa, e che so che è molto, molto impegnato proprio con la Russia, che sappiamo che è sventola che ha preso proprio in questi ultimi tempi. E chi non l'ha presa, Giulio? Ma in modo particolare ho notato proprio la Russia, che era quella che invece davano diciamo come riferimento per potersi posizionare, anche se con un PAC ma di cifra importante, posizionare appunto sull'Est Europa. Ora chiedevo appunto se conviene riscattare per contenere diciamo così le perdite, oppure continuare magari posizionandosi però su un altro tipo di fondo emergente che non abbia a che fare con la Russia. Adesso coinvolgiamo subito il diretto interessato. Giulio, la ringrazio molto. Beh, Giulio ha ragione, generalizzare non va bene. Tutti i listini di queste aree hanno preso delle botte sonore, come diceva Giulio. La Russia ha perso il 76% e sicuramente a non molti indici è capitato di subire anche ripetute sospensioni, il mercato chiuso addirittura per quello che riguarda appunto la borsa russa. Ma addirittura fino al mese di giugno penso che la Russia fosse il migliore tra i paesi emergenti in termini di performance relativa. C'è stato il tracollo a partire dal mese di giugno, con l'intervento poi della Russia in Georgia e tutti quegli altri problemi che sono emersi. Direi che per l'ascoltatore... No, beh, anche per rimarcare ancora quello che diceva prima Pierazzi, quanto sia importante anche il fattore politico poi, no? Quando si prendono in considerazione per il proprio investimento determinate aree. Beh, sono pur sempre paesi emergenti anche da questo punto di vista, per cui la stabilità politica c'è in alcuni, ma meno in altri. E quindi, insomma, cosa suggeriamo? Lei che cosa, se venisse da lei il nostro ascoltatore e le facesse in via privata una domanda di questo tipo, gli consiglierebbe di switchare, di scegliere magari un'altra area? Io ritengo che la performance relativa della Russia sia stata penalizzata in modo eccessivo nell'ultimo periodo. Sì, sconsiglierei all'ascoltatore di switchare in un'altra classe di fondi anche all'interno dei paesi emergenti. Ritengo che in questo momento la Russia sia sottovalutata a livello globale. Il sistema energetico russo, che produce molti più milioni di barili di petrolio rispetto al Brasile, ha valutato ai prezzi correnti probabilmente la metà della sola Petrobras a livello globale. Per cui vedevo Pierazzi che annuiva su questa considerazione. È stata eccessivamente penalizzata la borsa russa rispetto alla crisi internazionale? Quanto ha giocato questo fattore politico che citavamo prima, il conflitto interno con la Georgia? Sì, assolutamente sì, i mercati hanno fatto pagare al mercato russo un conto fin troppo pesante. La guerra, che è poi durata una settimana, tra la Russia e la Georgia, e che ha avuto un impatto pari a zero evidentemente sull'andamento economico della Russia, è stata vista in Occidente in maniera estremamente negativa. E questo ha accelerato le vendite, ma io credo che le vendite in realtà siano dovute al fatto che la maggior parte dei portafogli doveva essere liquidata, non per questioni fondamentali, ma per la necessità di fare cassa, e questo ha coinvolto massicciamente mercati emergenti sui quali non vi erano preoccupazioni di tipo economico. Tenere o era un mercato che si vendeva molto facilmente, sul quale si può reinvestire altrettanto facilmente, per cui si approfitta anche di questa liquidità, chiamiamola così. Ma ci sono dei numeri che dicono come stanno le cose. Oggi la Russia è il paese più cheap dal punto di vista della borsa, più economico, più conveniente dal punto di vista della borsa. Se si va a fare una misurazione del rapporto tra i prezzi della borsa e gli utili che le società quotate in borsa realizzano, è il paese in assoluto, è la borsa in assoluto più conveniente, più sottovalutata, al insomma. Mondo. Stiamo parlando grosso modo di un ratio che è la metà di quello del Brasile, insomma, quindi la convenienza è gigantesca. Siamo oggi a un rapporto tra prezzi delle società, quindi la loro capitalizzazione e gli utili che generano, intorno a 2,5. Il settore petrolifero russo nel 2009 è stimato a un rapporto di questo tipo intorno a 4,5. Stiamo parlando non di saldi, di più. Quindi oggi chi è fuori da questi mercati, chi è fuori dalla Russia, da questi mercati qua, fa bene a entrarci, e se non è uscito prima, a rimanerci. Eccoci ritrovati in diretta, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Allora, rapidissimo, Gianluca da Modena, andiamo ad analizzare la situazione di un'altra area imponente, abbiamo solo citata parzialmente nel corso di Salvadanaio. Benvenuto. Sì, buongiorno, grazie dell'ospitalità. E telegraficamente, io sono 10 anni che ho messo buona parte dei miei risparmi sui vari fondi della gestione tramite la mia banca. Ah beh, tutti quanti proprio, li abbiamo scelti con il conto proprio, sì, stamattina minuziosamente, no? Cavagna, sì. È del tutto casuale questa cosa che ho mi sta preoccupando. Per quello. Allora io le dico, leggo il suo sito, vedo tutto, poi negli ultimi 2 anni, perché era tra i migliori proprio in generale, ho spostato tutto sulla Cina. Tutti mi dicono peste corna, se guardo all'inizio dell'anno, se conto le perdite, meglio suicidarsi. Chiedevo una parola di conforto, se mi sapeva dire. Che cosa può dirle Gianluca, no? Il gestore di queste aree? Io però mi permetto di suggerire anche un'altra cosa, voglio dire, facciamo anche attenzione, perché altrimenti sembra che questo messaggio non passi mai da questa trasmissione, invece è quello prioritario che cerchiamo di dare sempre. Lei dice: ho messo gran parte dei miei risparmi in fondi esposti in quest'area. Questo, cioè, abbiamo la base proprio un errore di fondo. Io credo che alla base di ogni scelta di investimento ci sia intanto una grande differenziazione, perché altrimenti poi, ecco, si rischia di subire in maniera pesante, come le sta accadendo, l'effetto di una crisi finanziaria che investe in una determinata maniera ovviamente la Cina, ma ovviamente non poteva rimanere immune dalla crisi, anche se, continuiamo a ribadire, l'economia poi reale cresce a ritmi cinesi, perché sì, abbiamo coniato questo termine proprio per le cifre, insomma, di cui parliamo. Cavagna, Gianluca, la performance del mercato cinese da inizio anno è sicuramente peggiore di quella dei mercati emergenti, ma non così, così di tanto, per cui direi che tra un meno 50% dei paesi emergenti e meno 60% della Cina espressa in dollari, esatto, c'è una differenza ma non così significativa. È chiaro che uno poteva aspettarsi una migliore performance dalla Cina alla luce delle prospettive economiche di cui gode, ma quando gli investitori sono costretti a vendere e vogliono vendere, vendono a qualsiasi prezzo, e ciò che si è visto negli ultimi giorni è stata proprio la vendita indiscriminata di azioni di qualsiasi area geografica con diverse prospettive di crescita, indipendentemente da ciò sono state vendute. E insomma, la parola di conforto? La parola di conforto è che la Cina continua a rappresentare l'economia con il tasso più alto di crescita previsto nei prossimi anni, è un paese sano con 2 trilioni di miliardi di riserve valutarie, per cui è anche capace di intervenire a sostegno dell'economia, con un quadro politico stabile. È un paese stabile, che sta rallentando ma che crescerà vicino al 10%. Del 7-8%, sì. Allora, Emanuele da Roma, buongiorno. C'era anche un ascoltatore di Sassari che voleva ascoltare, l'abbiamo riperso. Emanuele, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie della finestra che mi potete dare. Io voglio dare una piccola testimonianza. Rappresento delle aziende italiane che stanno investendo in un paese da poco entrato nella Comunità Europea, che è la Romania. Sì. E ho visto che sembra una piccola Monte Carlo, perché dove mi giro trovo banche di tutto il mondo, però vedo che c'è un grosso allarmismo anche da parte dello Stato nei mezzi di comunicazione sul fatto che c'è una crisi, e c'è una pesante crisi. E questa cosa, dico la sincerità, io non la sto vedendo in Italia, dove vedo che comunque la realtà è molto simile a loro, nel senso non trovo una grossa differenza sul mercato. E quindi volevo portare questa testimonianza dicendo che comunque il rischio poi non è tanto nell'Asia, ma comunque anche alle porte di casa nostra. No, ma infatti, guardi, abbiamo impostato anche la nostra trasmissione all'inizio secondo queste considerazioni. Per quello che riguarda la Romania, sicuramente l'ultima notizia che abbiamo non è proprio confortante, perché Standard & Poor's ha declassato pesantemente il rating sul debito pubblico, appunto, dello Stato rumeno, e a questo punto i titoli di Stato rumeni sono junk, sono spazzatura. Pierazzi, la Romania insomma è davvero una piccola Monte Carlo dell'Est Europa? Ma io credo che non si debbano coltivare queste illusioni. Nell'Europa dell'Est, nell'ex Unione Sovietica, vi sono aree fortemente sviluppate, in grande accelerazione, vi sono città estremamente moderne, molto dinamiche. L'Ucraina è uno dei paesi oggi sotto la lente di ingrandimento per questa crisi finanziaria. Io sono stato una settimana a Kiev 20 giorni fa, è una città moderna, pulita, con un traffico regolare, con la gente che si ferma alle strisce pedonali. Ma guarda, sono stata 15 giorni fa a Praga e ho avuto le stesse identiche sensazioni sue. Ecco, quindi voglio dire, bisogna un po' fare la tara alle emozioni. In ogni caso esistono queste città, esistono poi aree che sono molto più arretrate, le campagne, le piccole città e via dicendo. Quindi la Monte Carlo è quella che noi conosciamo, cioè quella vera, è un fazzoletto di terra, rappresenta un'eccezione anche in Europa. Ci sono delle Monte Carlo nell'Europa dell'Est? Sì, ci sono, ma rappresentano eccezioni, non bisogna lasciarsi trarre in inganno da queste cose. Se tutto l'Est Europa l'ex Unione Sovietica fosse una Monte Carlo, non avrebbero nessun recupero da effettuare sull'Europa occidentale, anzi sarebbero già più avanti di noi. Noi investiamo in queste aree perché riteniamo che abbiano dei redditi pro capite molto più bassi dei nostri, che abbiano la voglia, tutte le intenzioni di migliorare, che cresceranno, e vogliamo approfittare di questa crescita. Se fosse tutto Monte Carlo andremmo a investire da un'altra parte, evidentemente. Quanto poi alla Romania rischia di essere insolvente sui titoli del debito pubblico? Ma questo è ancora troppo presto per dirlo, io personalmente non credo. Vorrei notare che comunque si parla di crescita economica per il 2009 superiore al 5%. Cioè, di nuovo, torniamo ai dati fondamentali e depuriamo l'analisi dalle emozioni. Speriamo insomma che il futuro imminente le dia ragione della situazione rumena. Volevo sentire Stefano da Sassari. Stefano, rapidissimo, perché abbiamo pochi minuti, sì, però mi sembrava interessante il suo contributo. Benvenuto. Buongiorno. Allora, il mio punto di vista è questo, cioè molto, cioè secondo me dovremmo essere un pochettino più onesti con tutti. La crisi della recessione esiste ed è presente in alcune zone del mondo. Sì, la recessione. L'Italia per esempio. Sì. Mentre in altri paesi come quelli asiatici esiste una crisi di borsa, ovviamente, perché sono mercati molto nuovi, ma hanno ovviamente una diciamo vivacità da un punto di vista di economia reale. E questo l'abbiamo detto, Stefano, sì. Esatto, quindi in questi termini io direi che per noi dovrebbero essere ancora delle opportunità questi paesi e dovremmo iniziare probabilmente però non a parlare di dazi o di barriere, ma semplicemente a pretendere che in un mercato globalizzato come quello che si vuole si inizi a lavorare solo ed esclusivamente chi rispetta determinate regole, sia in ambito al lavoro che in ambito alla come posso dire, alla qualità dei prodotti che vengono commercializzati. Non c'è bisogno di mettere dei dazi o altro, basta semplicemente fare questo e molti di questi paesi andrebbero ad aprire dei mercati e a chiuderne altri. Quindi lei insomma sostiene che se dessimo l'opportunità a queste aree di svilupparsi in maniera non troppo regolamentata, in questo momento forse la crisi finanziaria avrebbe avuto un impatto più contenuto, Stefano, anche a livello generale? Secondo me sì, nel senso che questi paesi sono cresciuti a dismisura e con loro, in un certo senso, le borse che hanno puntato su di loro. Ma era una crescita drogata, perché prima o poi ci sarebbero stati dei conti da pagare. Stefano, naturalmente no, guardi, mi scusi se la interrompo, che devo andare adesso con la nostra pillola sulla grande crisi e poi naturalmente anche una battuta finale ai nostri interlocutori su questi aspetti che lei citava, ma in ogni caso insomma ribadisco, sono punti di vista, chissà se non regolamentando tanto anche le importazioni dei prodotti di queste aree, insomma se davvero la situazione sarebbe stata diversa, non lo possiamo sapere. Intanto io vi ricordo che è ancora in edicola con il Sole 24 Ore l'instant book La Grande Crisi, domande e risposte per spiegare cause e conseguenze dell'attuale shock finanziario. La parola per spiegarvi e definire questa crisi che abbiamo scelto oggi è una parola insomma che non ci piace affatto, perché sicuramente è alla base di tutto il castello di carta che le banche hanno costruito, che le ha portate all'enorme crisi: cartolarizzazione. Cartolarizzazione. Procedimento di emissione di titoli finanziari sotto forma di obbligazioni da parte di una banca o di una società finanziaria, il cui rimborso è garantito dall'incasso periodico delle cedole di attività finanziarie, come ad esempio altre obbligazioni, o da pagamenti periodici, ad esempio dalle rate di mutui immobiliari. Un'ultima battuta prima di salutare i nostri ospiti. Michele Cavagna, un'area emergente che in questo momento predilige su tutte. Ma la Cina... La Cina, nonostante la performance che ha avuto, come dicevo l'ascoltatore pochi minuti fa, rappresenta dal mio punto di vista una delle migliori opportunità. Luca Pierazzi, per quello che riguarda l'Est Europa, che invece è l'area dove esclusivamente la sua società appunto è rivolta? Russia. Grazie per la sintesi, per la chiarezza. Vi ringrazio di essere stati con noi. Michele Cavagna, gestore di GSL Mercati Emergenti, Luca Pierazzi, responsabile della sede italiana di East Capital. Noi torniamo in diretta con Salva Danaio domani come sempre, torniamo sui mutui, parliamo di notai, c'è un'iniziativa in corso in Italia, porte aperte degli studi notarili per fornire alle famiglie italiane tutta la consulenza necessaria per stipulare un atto di compravendita immobiliare. Naturalmente da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. We'll be right back.